Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Irlanda del Nord, una polveriera, ucciso un poliziotto in un nuovo attentato. Brown però assicura non si commetteranno gli errori del passato. Via libera dall'Europa al piano italiano anticrisi, ma Bruxelles insiste. Ora le pensioni, il mondo non cresce più, dice intanto il Fondo Monetario Internazionale. E a pagare la crisi sono anche i neolaureati. Le richieste delle aziende sono infatti calate in due mesi del 23%. Il Veneto prova a risollevarsi partendo dall'edilizia e anticipa il piano case del governo. Berlusconi al colle, perché no? La svolta di Fini. Sulla RAI invece per ora tutto tace. Il Dalai Lama contro Pechino, in Tibet è un inferno, tensione per le manifestazioni annunciate nei prossimi giorni. Italia e Inghilterra, la sfida continua, questa sera la Juventus in campo, anche Inter e Roma cercano il riscatto. GR Strage, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. L'Irlanda del Nord, ha detto il premier Gordon Brown, non ricadrà negli errori del passato. Brown ha assicurato che il terrorismo è cosa del passato, ma è indubbio però che dopo l'attentato di domenica e l'episodio di questa notte i timori ci siano. E allora cominciamo proprio da qui, da quello che è successo. Due attentati in 48 ore a Belfast, tre agenti di polizia inglesi uccisi, il mondo politico irlandese e inglese indignato davanti alla furia folle di un manipolo di terroristi dell'ala dissidente dell'IRA. Si tratta di assassini che tentano di far deragliare e distruggere il processo politico che funziona per la popolazione dell'Italia del Nord, ha detto da Londra il premier britannico Gordon Brown. Sentiamo. Due attentati in 48 ore e sull'Irlanda del Nord piomba nuovamente lo spettro del terrorismo. Questa notte un agente di polizia inglese è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a sud-ovest di Belfast. L'omicidio è stato rivendicato poco fa dall'ala dissidente dell'IRA che in un comunicato dice: fino a quando i britannici saranno implicati in Irlanda continueranno gli attacchi. Attacchi che sabato notte sono costati la vita a due militari inglesi, ragazzi di 21 e 23 anni, uccisi all'ingresso principale di una caserma a nord-ovest di Belfast. Anche in questo caso l'attentato è stato rivendicato dai dissidenti dell'IRA, oggi entrati a far parte della Real IRA, cioè l'esercito repubblicano irlandese che si oppone al processo di pace e che negli ultimi anni ha firmato numerosi attentati contro civili e soldati. Gli omicidi di queste ultime ore sono i primi dal 1998, fatti gravi che hanno spinto il primo ministro nordirlandese Peter Robinson e il vice premier Martin McGuinness ad annullare il viaggio previsto negli Stati Uniti. Sono disgustato da questi attentati, ha detto Robinson. Non ci sarà un ritorno al passato, ha dichiarato invece il capo del governo inglese Gordon Brown, che sentite da Londra. Si tratta, ha continuato Brown, di assassini che tentano di far deragliare e distruggere il processo politico che funziona per la popolazione dell'Irlanda del Nord. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E come ci siamo chiesti, episodi di questo tipo sono il segnale di un possibile ritorno al passato? La domanda l'abbiamo girata a Dublino a Concetto Lamalfa, professore esperto di tematiche nordirlandesi. Questi fatti, anche se incresciosi, due militari, un poliziotto, anche se gravi, ancora rimangono entro gli argini di quelli che sono i fatti purtroppo che ci si aspetta da una fazione molto piccola della vecchia Sinn Féin nazionalista, vero, che ancora fomenta e che vorrebbe a tutti i costi l'annessione dell'Ulster alla Repubblica d'Irlanda, diciamo, e che non sopporta la presenza neanche di un militare inglese. Ecco, questa è la situazione. Ora, è difficile dire se sia una ripresa o no. Il fatto sta però che i nazionalisti che sono nel governo irlandese del nord, nella fattispecie Martin e Gerry Adams, senz'altro hanno denigrato questi fattacci e, d'accordo con tutti gli altri ovviamente della parte protestante al governo, sono disposti a tenere duro, a non permettere che appunto ci sia una ripresa. però il tempo ci darà ragione. Adesso non sappiamo ancora esattamente di quello che si tratta. Così in Irlanda, e alta tensione c'è anche in Tibet, c'è anche in Cina, dove in occasione del 50° anniversario della rivolta anticinese del 1959 che lo costrinse all'esilio, e un anno dopo ricorderete i duri scontri apparsi sulle TV di tutto il mondo, il Dalai Lama torna a chiedere autonomia. La Cina risponde, risponde seccamente. Allora andiamo in piazza Tiananmen, dove ci aspetta Antonio Talia. Sì, buonasera, ci troviamo all'angolo fra la Tianmen Dongdaji e Piazza Tiananmen, nel cuore di Pechino, una Pechino che non sembra particolarmente scossa né dalle parole del Dalai Lama né dalla polemica che appunto è montata dagli ambienti governativi, quando il portavoce del Ministero degli Esteri ha appunto risposto che quelle del Dalai Lama sono delle menzogne e che la cricca del Dalai Lama confonde il bianco con il nero. Non ci sono una Pechino calma, però in apparenza si è registrato oggi per esempio nelle stazioni della metropolitana una vaga inquietudine quando gli addetti costringevano a passare i bagagli dei passeggeri ai metal detector. Altri punti però della città che potrebbero essere dei focolai di tensione sono tranquilli, come per esempio la Università delle Minoranze, che l'anno scorso, durante appunto i fatti di Lhasa, era stato teatro di una protesta silenziosa che era stata poi prontamente bloccata con un intervento molto soft ma molto diretto della polizia armata, la Vujing. E proprio la Vujing, che è il corpo in carica, il corpo che si occupa di controllare le situazioni di ordine pubblico assieme all'esercito nelle zone delle province autonome, come per esempio il Tibet, ma anche lo Xinjiang e la Mongolia interna, è un po' sotto i riflettori, perché quest'oggi l'Oriental Morning Post, che è un quotidiano di Shanghai, ha riportato le dichiarazioni del commissario della polizia armata in carica per appunto la regione autonoma del Tibet, il quale ha riferito che il corpo che comanda è pronto a qualsiasi tipo di scenario. Insomma, calma solo apparente. Grazie ad Antonio Talia. E sul Tibet è prevista oggi una mozione da parte della Camera. Siamo tornati naturalmente in Italia. Sarà proprio questa l'occasione per il debutto del voto elettronico con le impronte digitali, il sistema cosiddetto antipianisti. Ricorderete, un sistema che però non coinvolgerà proprio tutti. Tra i parlamentari infatti c'è chi non vuole aderire, e sono 57 sul totale di 630 deputati che fino ad ora non hanno ancora depositato come richiesto le proprie impronte. Di questi 19 hanno proprio rifiutato il nuovo sistema e hanno dichiarato che non aderiranno. Per loro dunque resterà in piedi il vecchio sistema di voto. E voltiamo pagina, andiamo a Bruxelles, dove l'Ecofin, secondo quanto si apprende, ha dato stamattina il via libera al programma di stabilità del governo italiano, adottando le raccomandazioni in cui si chiede a Roma di portare avanti con determinazione l'aggiustamento dei conti previsti. Nel testo adottato dall'Ecofin si sottolinea come il piano anticrisi messo a punto da Roma sia coerente col piano europeo di rilancio dell'economia. Il documento individua anche possibili misure supplementari però sul fronte delle pensioni, e ancora una volta invita l'Italia a innalzare l'età pensionabile per le donne. Con i risparmi, secondo l'Ecofin, si potrebbe creare più spazio per realizzare un sistema di sostegno della disoccupazione. E come sappiamo, anche su questo il dibattito in Italia è aperto. Andiamo però invece alla giornata di borse. Deborah Rosciani, oggi si conferma un rimbalzo positivo. Sì, infatti si vede il sereno oggi sui mercati finanziari europei, che ci avevano sul finale provato anche ieri dopo una giornata di nuovo piuttosto pesante soprattutto per Piazza Affari. Infatti oggi è proprio Milano a guidare l'Europa con un rialzo di 2,5 punti sull'S&P MIB 40, mentre gli altri listini stanno guadagnando in Europa tra 1 punto e 1,5 punti. La volata è tirata dai titoli del settore bancario, Intesa più 9, Unicredit più 8,86%, e alle 12,46 è ritornato in contrattazione anche il Banco Popolare, che segna adesso un rialzo dell'8,5%. 8,57%. La banca ha formalizzato la sua richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia di far ricorso ai Tremonti Bond, ma soprattutto c'è in discussione la riorganizzazione della controllata Banca Italise, anche questa ritornata in contrattazione dopo la sospensione della mattinata. Il titolo adesso è in progresso del 6,23%. Grazie Deborah Rosciani. Allora, indubbiamente Banco Popolare sotto i riflettori oggi. Ripercorriamo allora la sua storia. In principio fu Fiorani e il bacio in fronte al governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, catturato dalle intercettazioni della Guardia di Finanza. Ma i tempi dell'uomo che voleva farsi re, il protagonista delle scalate truccate ad Anton Veneta, RCS e BNL, sembrano lontani, perché tanta acqua è passata sotto i ponti da quel 2 agosto 2005, quando la magistratura dispone la sospensione di Fiorani dalle cariche, da quel 13 settembre 2005 in cui Fiorani si dimette, da quel 13 dicembre 2005 quando viene arrestato. In quei giorni Banca Popolare Italiana intraprende un difficile cammino di rilancio sotto la guida di Divo Gronchi. Nel giro di poco più di un anno il cammino appare a buon punto e il 1 luglio 2007 dalla fusione di Banca Popolare Italiana con Banca Popolare di Novara nasce il Banco Popolare, che oggi è il quarto istituto italiano di credito e la più grande popolare nazionale, 21.000 dipendenti, oltre 3 milioni di clienti. Tuttavia, tra le società controllate c'è anche Italise, travolta tra maggio e giugno 2007 dalla vicenda che porterà in carcere la di Massimo Faenza. A settembre 2007 i soci, tra cui Banco Popolare, indicano nuovi vertici e ripianano le perdite. Ma a dicembre 2008 il fallimento dell'intesa tra Italise e la tedesca DZ Bank si riverbera su Banco Popolare, che cambia l'amministratore delegato affidandosi a Pierfrancesco Saviotti. Fino all'ultima puntata, l'accordo tra i soci per il delisting di Italise e il ricorso di Banco Popolare ai Tremonti Bond. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di politica. Fini, politico equilibrato che lancia Berlusconi come possibile presidente della Repubblica. È quanto emerge da un'intervista rilasciata dallo stesso Fini al quotidiano spagnolo El País. Che succede? Ce lo racconta Elisabetta Fiorito. Sì, Gianfranco Fini promuove Silvio Berlusconi al Quirinale. Questa è la sostanza. In un'intervista al País il presidente della Camera ammette che l'ipotesi di Berlusconi capo dello Stato non è remota, perché il premier oggi gode di un appoggio personale e popolare. Fini rifiuta poi di essere definito il delfino di Berlusconi. Sono repubblicano, dice il presidente della Camera, e Berlusconi non è un re con un erede. La politica è un'altra cosa. Nega poi la dicitura di destra civilizzata Fini, perché lascia intendere che prima fossimo incivili. La cultura della destra deve modernizzarsi, dice, bisogna smetterla con le etichette del secolo scorso, ci sono sfide culturali che dobbiamo affrontare: integrazione, laicismo, emigrazione, diritti dei cittadini, autorità dello Stato. Dal canto suo il presidente della Camera viene descritto dal País come il politico più equilibrato di questa emotiva ed agitata Terza Repubblica Italiana. Studio. Elisabetta, c'è un'altra poltrona però ben più vicina da decidere, ed è quella di presidente della RAI. Qui oggi cosa si attende? Allora, sul fronte RAI ancora nessun accordo, tanto per riprendere il Paese che dice, cioè, che questa è una Terza Repubblica Italiana agitata ed emotiva. Dopo l'accordo che sembrava fatto per Ferruccio De Bortoli e la replica, il no di Ferruccio De Bortoli a presidente della RAI, il premier Silvio Berlusconi ha bocciato Claudio Petruccioli alla presidenza, il Partito Democratico ha pronto una rosa di nomi, si fanno quelli di Paolo Casarola, Fabio Fabiani, Andrea Manzella e Paolo Ruffini. Vediamo come andrà a finire. Grazie Elisabetta. E intanto c'è da dire che dalla RAI una certezza arriva, riguarda il mondo delle fiction. Oggi viene presentata un'altra di queste fiction, Pane e Libertà, riguarda l'origine del sindacato in Italia, e sembra proprio ormai che la RAI con queste fiction agisca sempre di più con il manuale Cencelli alla mano. Le nostre condizioni sono queste qua. Più di 9 ore a giornata. Non dobbiamo faticare. Il mangiare deve essere di 1 litro di acqua e 1 chilo di pane di grano. La fiction RAI è ancora da vedere. L'anteprima di Pane e Libertà alla Camera dei Deputati è prevista alle 16. Per la proiezione ci saranno i vertici nazionali della CGIL, ci sarà Fini, parlamentari e rappresentanti istituzionali della Regione Puglia. La storia, infatti, è quella del padre della CGIL, Giuseppe Di Vittorio. Ma già possiamo ipotizzare alcune scelte stilistiche: l'uso della musica, dei flashback, della recitazione, dei dialoghi e scelte, come dire, politiche se non ideologiche. Insomma, scelte da fiction. Qualcuno si è spinto a ipotizzare l'esistenza di un manuale Cencelli applicato proprio alla fiction. Certo è che la TV è legata alla politica a doppio filo e la scelta di occuparsi di storia del Novecento non è mai casuale. Della fiction sul Barbarossa, tanto voluta da Umberto Bossi, si è parlato tantissimo. La Lega aveva già criticato le 5 giornate di Milano, troppo romanocentriche. Eppure, oltre al Lino di Mameli, si sentiva il vapensiero: non sufficiente, avrebbero voluto il dialetto milanese. C'è la quota religiosa, ma c'è anche il produttore molto forte in Rai e molto forte sul tema. Eppure la fiction su Paolo VI non era piaciuta in Vaticano. Niente clamore comunque, semplicemente citata solo di sfuggita dall'Osservatore Romano. Ma comunque, hai parlato con tuo padre? No, e ti prego non ti ci mettere pure tu, che già c'è mia madre che rompe. Intanto però vanno forte le famiglie allargate e in Tutti pazzi per amore c'era la figura di un padre serenamente gay. Meno sereno il figlio, ma tranquilli solo all'inizio. Polemiche invece per Caravaggio, sessualmente normalizzato o banalizzato. Il più bistrattato di tutti, invece, il povero Puccini. Nemmeno le sue musiche nella fiction, sostituite con quelle di Don Frisina, che i maligni ritengono troppo vicino alla Santa Sede. E di Vittorio? Che fine farà? Il regista mette le mani avanti. Abbiamo cercato l'uomo, al di là delle bandiere, guardato il personaggio negli occhi e nel cuore. Noi staremo a vedere. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:20 minuti, le notizie di oggi extra large. L'Ecofin ha dato poco fa il via libera al programma di stabilità italiano. Nel testo viene definito coerente con il piano europeo, il piano anticrisi messo a punto da Roma, ma si aggiunge potrebbero essere adottate misure supplementari sul fronte delle pensioni. La crisi destinata a persistere nelle prospettive per il 2010 non lascia speranza. Intanto il documento al tavolo dei ministri riuniti a Bruxelles, con il Fondo Monetario Internazionale che incalza, quest'anno la crescita mondiale sarà pari a zero, come non accadeva dal 1945. E neolaureati pagano la recessione, crollano infatti le richieste delle imprese, lo dice il rapporto Alma Laurea. Gli uffici del personale nei primi due mesi del 2009 hanno ridotto le richieste di laureati del 23%, un terzo di chi ha una laurea deve accontentarsi di lavori atipici. Sentiamo Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea. Nel 2008, sia pure in misura molto modesta, sono fatti sentire i segni della crisi incipiente. La situazione sta aggravandosi perché abbiamo avuto una riduzione nelle richieste di laureati del 23%. Favorire alle aziende l'accesso al credito è evidente che è la misura immediata. Il primo ministro britannico Gordon Brown assicura l'Italia, l'Irlanda del Nord non ricadrà negli errori del passato. Ieri sera nuovo attentato in cui è rimasto ucciso un poliziotto, solo sabato la morte di due soldati. Una autonomia significativa per il Tibet, ha chiesto oggi il Dalai Lama alla Cina in occasione del 50° anniversario delle rivolte anticinesi. La cricca del Dalai Lama diffonde menzogne, la replica di Pechino. Berlusconi al Colle, l'ipotesi non è remota, dice Fini in un'intervista a El País. Il premier può ambire al Quirinale, ha consenso, ancora nessuna intesa sulla presidenza Rai. È attesa la decisione sulla scarcerazione dei due accusati per lo stupro della Caffarella. L'ultima novità, un testimone, un medico che il pomeriggio in cui veniva violentata la ragazzina di 14 anni faceva jogging nel parco e proprio lì vide i due romeni. Microsoft si adegua all'Unione Europea. Il prossimo sistema operativo in arrivo a inizio 2010 permetterà di disattivare Internet Explorer in favore di prodotti di altre case per evitare nuove maximulte. È una delle misure su cui il governo intende puntare per stimolare la ripresa economica e venire incontro alle esigenze dei cittadini in questa fase di crisi dell'economia. Parliamo del cosiddetto piano casa. Una legge allo studio che prevede la possibilità per i proprietari di case di ampliare sino al 20% la cubatura di un immobile o di poter ricostruire utilizzando criteri di ecosostenibilità le abitazioni realizzate prima del 1989. E allora ne parliamo con il presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, che anticipando in qualche modo il governo vuol fare già una legge regionale dello stesso tipo e con le stesse finalità. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. È così? Allora andate in questa direzione. Cos'è che vuol fare il Veneto? Non è proprio così. La legge del Veneto è strettamente coordinata con gli intendimenti nazionali, perché non sarà il livello nazionale a determinare la legge. Determinerà solo gli indirizzi globali e le regioni che lo vorranno fare faranno le vere e proprie leggi regionali. Ecco, io faccio questa legge regionale, la propongo oggi alla mia giunta, che poi la dovrà trasmettere al Consiglio. Altre regioni non so che cosa facciano, ma io credo che la proposta veneta andrà avanti speditamente, in assoluta concordanza con l'ordinamento nazionale. Che però voi date già per scontato che sarà anche nei dettagli così. Ma i dettagli sono le regioni a doverli stabilire, la mia regione dettaglia così, dopodiché se la Lombardia vuol fare il 25%, vuol fare il 15% per dare un'idea, vuole porre qualche misura diversa, sarà liberissima di farlo. Noi in Veneto abbiamo scelto questo e quando abbiamo concordato le cose con il governo abbiamo concordato queste misure che poi sono diventate anche quelle nazionali. Senta, però si parla di piano casa, in realtà questa operazione riguarda chi ha una casa indipendente. Sì, principalmente sì, però io voglio dire anche un'altra cosa, che andrò avanti, non mi fermerò soltanto a questo progetto, ma venderò agli attuali residenti anche le case di proprietà degli ATER. Sono tante, veramente tante, e quindi anche questi avranno, per carità, evidentemente possibilità più limitate. Quanti sono questi alloggi, governatore? Credo 100.000. Quindi in Veneto ci sono 100.000 alloggi che sono in procinto di essere venduti a prezzi, immaginiamo. Mettiamola da un altro punto di vista, in Veneto ci sono 100.000 affittuari che stanno per diventare proprietari. A livello nazionale una critica è arrivata dal leader della Lega Umberto Bossi che dice: attenzione però, non favoriamo gli immigrati. In Veneto da voi qualcuno ha sollevato questa critica? Io ancora non ho sentito qui in Veneto se non qualcuno più per dire le stesse cose del capo, insomma, con quello spirito, perché non ha alcuna motivazione una preoccupazione del genere. Se diamo la possibilità a chi risiede di aggiungere una stanza o due alla sua abitazione, cosa c'entrano gli immigrati? Ecco, l'altra perplessità invece è ambientale. Sì, perché insomma qualcuno che rivolge critiche a questo progetto per l'ampliamento delle case dice: si parla già di scempio ambientale, è un rischio che mettete in conto quello di vedere così, diciamo, delle appendici edilizie del cemento in più, oppure non lo so, ci dica. Di tipo ideologico, e quindi contro i pregiudizi ideologici non c'è nulla da fare. Si rispettano tutti i vincoli esistenti, si rispettano tutte le norme che esistono, si dà la possibilità di fare una casa, di trasformare una casa in una cosa più bella. Si dà soprattutto la possibilità di trasformare un qualcosa di obsoleto in qualcosa di tecnologicamente avanzato dal punto di vista proprio del risparmio energetico, delle tecniche più moderne, e questi restano ancora l'opposizione. Non è in nessun modo una sanatoria mascherata, lei dice? Ma in nessun modo, è una semplificazione della burocrazia, questo sì. E tutto quello che semplifica la burocrazia per me è un grande bene, per i vincolisti a ogni costo, come purtroppo i verdi italiani, è una tragedia. Lei crede che i veneti costruiranno di più, cioè metteranno mano alle loro case dopo questa legge? Io credo proprio di sì, io credo che metteranno mano, le approfitteranno per farle più belle, per farle più alla moderne, più al passo coi tempi. Quindi io credo che non soltanto ai veneti, ma anche al Veneto nel suo complesso ne deriverà un grande beneficio. Grazie allora, governatore, per essere stato con noi. Grazie a voi. Nel frattempo le agenzie hanno battuto un altro dato che racconta la crisi. 46% in più di domande di disoccupazione in Italia nei primi due mesi dell'anno. Tra gennaio e febbraio, scrive l'agenzia ANSA, 370.561 sono stati i lavoratori italiani che hanno perso il posto di lavoro e hanno presentato domanda di indennità di disoccupazione. 116.983 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi dati sulla disoccupazione, ma ora ci vogliamo occupare di chi invece una proposta di lavoro la riceve, per esempio i neolaureati. Ebbene, però, nei primi due mesi del 2009, secondo i dati di Alma Laurea, sono scese del 23% rispetto allo stesso bimestre dell'anno scorso le richieste dei laureati da parte del mondo del lavoro, un segnale non certo positivo. Adriana Fracchi ha intervistato Andrea Cammelli, direttore di Alma Laurea, il consorzio universitario che coinvolge 52 atenei italiani. Sentiamo. La prima cosa che emerge è che il paese, nonostante le diverse visioni, continua ad avere forte bisogno di capitale umano altamente qualificato. La seconda cosa che emerge è che nel 2008, sia pure in misura molto modesta, sono fatti sentire i segni della crisi incipiente, perché abbiamo avuto una riduzione del tasso di occupazione e un aumento della disoccupazione anche fra i laureati. Ecco, questo tasso è quantificabile in quanto? Il tasso di disoccupazione è aumentato del 3% rispetto all'anno precedente. E quindi è chiaro che i primi segni, l'indagine che abbiamo finito di condurre nell'autunno del 2008 ha intercettato i primi segnali di crisi, ma ancora non in misura ovviamente rilevante. La situazione sta aggravandosi perché abbiamo avuto una riduzione nelle richieste di laureati del 23%. Favorire alle aziende l'accesso al credito è evidente che è la misura immediata, ma cerchiamo di fare operazioni che consentano alle aziende anche l'accesso al capitale umano, di cui queste aziende stesse hanno bisogno e il paese non può privarsi. La laurea risulta comunque premiante per chi vuole appunto trovare un lavoro? Assolutamente sì, nonostante le difficoltà, i laureati hanno un tasso di occupazione di 11 punti percentuali più elevato. Nell'arco medio del tempo la laurea premia sicuramente. 13:35 minuti, le notizie di oggi extra large. Il Fondo Monetario Internazionale incalza: quest'anno la crescita mondiale sarà pari a zero, come non accadeva dal 1945, e la Banca Centrale Europea corre ai ripari. Non esiteremo a tagliare ancora i tassi di interesse fino a zero. L'Ecofin ha dato il via libera intanto al programma di stabilità del governo italiano, ma si aggiunge nel documento: potrebbero essere adottate misure supplementari sul fronte delle pensioni. E tra le novità che il governo metterà in campo c'è anche il piano case. Le regioni potranno concedere cubatura in più per far ripartire l'edilizia. Oggi fa da apripista il Veneto, che presenta il suo piano, così il governatore Galan. Io credo che metteranno mano, ne approfitteranno per farle più belle, per farle più al moderne, più al passo coi tempi. Quindi io credo che non soltanto ai veneti, ma anche al Veneto nel suo complesso ne deriverà un grande beneficio. Berlusconi al Colle, l'ipotesi non è remota, dice Fini in un'intervista allo spagnolo El País. Il premier può ambire al Quirinale, ha consenso. Ancora nessuna intesa intanto sulla presidenza Rai. Questa notte è stato ucciso un agente di polizia inglese a sud-ovest di Belfast. La rivendicazione ad opera del gruppo dissidente dell'IRA, che aveva già rivendicato l'attacco di sabato scorso. L'Irlanda del Nord non ricadrà negli errori del passato, così ha detto il premier britannico Gordon Brown, che sentiamo in sottofondo. Si riaccende anche la tensione tra Dalai Lama e Pechino. Un'autonomia legittima e significativa è quanto ha chiesto oggi il capo spirituale del Tibet. La cricca del Dalai Lama diffonde menzogne, risponde Pechino. Microsoft si adegua all'Unione Europea. Il prossimo sistema operativo in arrivo a partire dal 2010 permetterà di disattivare Internet Explorer e non solo, in favore di prodotti di altre case, per evitare nuove maxi multe. Non vogliamo abbandonare il palcoscenico internazionale, dice Claudio Ranieri, allenatore della Juventus, che questa sera incontrerà il Chelsea. La partita apre la sfida tra italiani e inglesi. Domani toccherà l'Inter in trasferta contro il Manchester e a Roma dovrà vedersela con l'Arsenal. Una notizia, una dichiarazione di questa mattina che aiuta a inquadrare il momento economico. Lorenzo Bimismaghi, componente del board della BCE, la Banca Centrale Europea, ha detto che la BCE non esiterà a tagliare i tassi fino a zero se l'economia di Eurolandia sarà minacciata dalla deflazione. Questo ha detto Bimismaghi in un'intervista al giornale finanziario tedesco Börsen Zeitung. Notizia buona naturalmente per chi paga il mutuo e che poi segnala il dinamismo della BCE, che cerca di migliorare la situazione economica. Perché, come se non bastasse, arrivano oggi altre stime negative. In questo caso arrivano dal Fondo Monetario Internazionale. La crescita economica mondiale sarà sotto lo zero nel 2009, ha detto il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Strauss-Kahn. Cifre da guerra, ha aggiunto, non accadeva dal 1945. E adesso non ci accusate di volerci fare del male, perché altri numeri sono quelli che riguardano il turismo. Meno 7% era stato il numero delle presenze nelle strutture alberghiere a gennaio, a febbraio il calo è stato del 10%. Nonostante carnevale e settimane bianche, ne vogliamo parlare con Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Presidente Federalberghi, di Confturismo, Confcommercio. Avevamo letto però nei giorni scorsi che nonostante la crisi le località sciistiche insomma non avevano registrato il tutto esaurito, ma quasi. E invece adesso dai vostri dati insomma veniamo a scoprire che c'è stato questo calo. Sì, purtroppo l'Italia non è solamente la montagna, nel senso che la grande neve ha facilitato le stazioni sciistiche a Natale nelle settimane bianche, però abbiamo una grossissima crisi delle città d'arte dovuta soprattutto a un drastico calo del turismo nordamericano, giapponese, russo, e purtroppo questa crisi nei primi due mesi dell'anno si è anche allargata alle capitali dell'economia italiana quale Milano, quindi insomma la situazione oggi come oggi è altamente negativa. Ascolti, gli italiani rinunciano alle vacanze oppure vanno al risparmio cercando sconti e tariffe economiche? Insomma, in tempo di crisi si cancella proprio la vacanza o si cerca comunque di farla? E magari si offre anche qualcosa di diverso ai possibili turisti, qualcosa di più scontato, non so. Sicuramente, gli alberghi oggi in Italia hanno diminuito le tariffe rispetto all'anno precedente, perché vediamo prezzi alberghieri che sono scesi intorno al 20%. Ovviamente noi ci andiamo a confrontare con destinazioni nel mondo che sono a basso costo, come l'Egitto, come la Tunisia, come la Croazia, destinazioni che hanno un sistema di costi di impresa molto inferiore ai nostri. Ovviamente quando il parametro principale diventa il costo della vacanza, queste destinazioni hanno qualche vantaggio competitivo più rispetto a noi. Certo è che per noi il turismo italiano in Italia è importante, quindi stiamo facendo di tutto per cercare di trattenere i nostri connazionali e fargli trascorrere le loro vacanze in Italia. E Pasqua come la vedete? Pasqua al momento l'italiano cerca di prenotare last minute, quindi al momento nelle nostre città d'arte abbiamo ancora grossi spazi. Dall'altra parte la molta neve che c'è ancora nelle stazioni sciistiche ci può far prevedere una buona Pasqua per la montagna e per quanto riguarda le città d'arte, il punto interrogativo, nella speranza che il turismo straniero ricominci a viaggiare e quindi a rifrequentare e a venire da noi. E vedremo come andrà. Grazie nel frattempo a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Sarebbe una notizia abbastanza clamorosa per il mondo dell'informatica. La Microsoft ha annunciato che dopo 12 anni di matrimonio il sistema operativo Windows e l'applicazione Internet Explorer saranno slegate tra di loro, cioè si potrà installare uno e disinstallare l'altro. A confermarlo è la stessa società di Redmond sul blog aziendale, una decisione presa in favore dei propri utenti, si legge sul sito, ma più probabilmente diciamocelo volta a sedare le proteste dell'Unione Europea che dal 1993 l'accusano di violazione delle norme antitrust per l'inclusione del proprio browser nel sistema operativo Windows, già installato, gratuito e soprattutto, e questo era il punto, inamovibile. E non facciamo che parlare di borse nella bufera in queste settimane. Da più parti si levano richieste di regolamentazioni più severe, ma c'è anche chi invece debutta in borsa e debutta una nuova borsa. Andiamo a Damasco. Aprire un mercato azionario di questi tempi? L'operazione appare azzardata. Se poi il paese in questione, la Siria, certo non l'emblema del libero mercato, si fa fatica a crederci. Eppure l'inaugurazione oggi del nuovo Damascus Security Exchange, riaperto dopo oltre 40 anni, è una realtà. La partenza è timida. Solo 6 le società quotate. Ne seguiranno altre 7 nei prossimi giorni. 9 broker e una capitalizzazione davvero modesta. La prudenza non è mai troppa e i vincoli alle transazioni appaiono anacronistici, come l'eccesso di rialzo fissato al 2% e il divieto di acquistare e vendere lo stesso titolo nella stessa seduta. Ma è un passo in avanti in un paese che sta vivendo una metamorfosi impensabile negli anni 90. Il processo delle riforme economiche avviato nel 2000 è stato graduale ma inesorabile. L'economia della Siria, un tempo baluardo del socialismo medio oriente, sta ora cambiando faccia. Le leggi fiscali, la riduzione dei dazi all'import e dei sussidi hanno attratto una pioggia di investimenti stranieri. Il PIL, cresciuto del 5% nel 2008, dovrebbe salire quest'anno del 3%, e di questi tempi non è poco. Forse peccano di ingenuità, ma gli operatori siriani sono entusiasti. Per loro oggi è una giornata storica. Roberto Bongiorni, GR24, Il Sole 24 Ore, Damasco. Ricordate durante le Olimpiadi di Pechino le medaglie d'oro degli azzurri? Ricordate soprattutto le polemiche sugli sport poveri e poco premiati? Ebbene, di ieri l'iniziativa del CONI che propone incentivi per i campioni olimpici. Dario Ricci ha chiesto un commento a un'esperta di campioni olimpici, Valentina Vezzali, plurimedagliata della Scherma Azzurra. È un incentivo che premia tutti i sacrifici che noi atleti facciamo giornalmente per riuscire poi ad arrivare all'obiettivo finale, che per un atleta come noi è rappresentato dalle Olimpiadi, e quindi un supporto che ci permette di prepararci un quadriennio con più tranquillità. Un premio che verrà elargito alle medaglie d'oro, a voi vincitori. Pensi che le medaglie d'argento e i bronzi di queste due tornate olimpiche potrebbero avere qualcosa a che ridire? Tutti gli atleti, sia vincitori di medaglie che non, si impegnano tantissimo, quindi tutti meriterebbero di avere un qualcosa in più, però sicuramente la situazione che stiamo attraversando in questo momento, parlo di crisi economica a livello globale, è tanta, quindi forse il CONI sicuramente ha fatto un sacrificio e sono contenta che l'abbia fatto per noi, e mi auguro che piano piano si possa estendere non solo a vincitori di medaglie ma a tutti quegli atleti che si sacrificano come me e che cercano di arrivare al massimo e riescono comunque a raggiungere il traguardo di partecipare ad un'Olimpiade, perché è difficile vincere una medaglia d'oro, ma è difficile al pari riuscire a qualificarsi e riuscire a partecipare ad un'Olimpiade. C'è timore magari, Valentina, anche di qualche reazione populista, qualcuno potrebbe dire ecco, gli atleti hanno battuto cassa, alla fine hanno ottenuto quello che volevano, ma in un momento che, come sottolineavi, è estremamente difficile per tutti. Dal mio punto di vista, al di là della parte economica, se faccio sport, faccio sport perché ci credo, perché per me è passione e perché mi regala tantissime emozioni e perché spero di poter regalare emozioni anche a tutte le persone che mi guardano, e mi auguro che comunque la situazione possa migliorare per tutti e che questo premio magari in misura minore possa comunque alla fine arrivare a toccare tutti quanti. E parliamo del calcio e della sfida tra Italia e Inghilterra, seconda fase. Un tempo leoni feroci, oggi inoffensivi e senza denti, alla vigilia della triplice sfida anglo-italiana. Ecco, sono questi i pronostici della stampa britannica e anche dei bookmakers, tutti sbilanciati verso le tre squadre di Premiership. Avranno ragione? Si inizia stasera con Juventus-Chelsea. E allora, visto che proprio vogliono provocarci, fuori i denti. Se c'è una cosa che abbiamo noi italiani è quella di tirare fuori le unghie quando veniamo sbertucciati. Se poi lo fanno gli inglesi, è la volta buona che da agnellini diventiamo davvero leoni. Insomma, questo editoriale del Times, che paragona le squadre italiane a gattini sdentati, è proprio quello che ci vuole per farci girare le scatole. L'unico vero carburante che cementa in un'impresa noi italiani. Siamo fatti così, l'ultima spiaggia ci esalta. Vi ricordate il mondiale in Germania e quello dell'82? Eravamo la frutta, derisi. Sapete com'è finita? Li abbiamo spazzati via. Ora con le squadre di club, che ormai di nazionale hanno solo il nome, forse non è la stessa cosa. Però in questa Juventus-Chelsea che fa da apripista qualcosa si intravede. Senza un centrocampo, con un pesantissimo gol da rimontare, diciamolo, ci vuole l'impresa. E l'Inter col Manchester, a parlare come fa Mourinho, che poi è portoghese, è un conto, ma a fregare a casa sua Ferguson, uno che in bacheca ha 32 trofei, è un'altra. Ma questi vogliono provocarci, come i maccheroni di Alberto Sordi. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne magno. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi. Disoccupazione e allarme negli ultimi due mesi, 370.000 domande, il 46% in più rispetto all'anno scorso. Il mondo non cresce più, dice intanto il Fondo Monetario Internazionale. Da Bruxelles il via libera al piano italiano anticrisi. L'Irlanda a rischio polveriera, ha ucciso un poliziotto in un nuovo attentato. Brown assicura non si commetteranno gli errori del passato. Berlusconi al colle, perché no, la svolta di Fini. Sulla Rai invece per ora tutto tace. In Italia molti l'hanno definita la svolta nella ricerca. Di certo la decisione del presidente americano Barack Obama, di cui abbiamo parlato naturalmente anche ieri, di aprire i fondi pubblici alla ricerca sulle staminali embrionali, cambia la prospettiva della ricerca in quel paese, in America. E in Italia che succede? Salutiamo Elena Cattaneo, direttore del Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali dell'Università Statale di Milano. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa. In America non è mai stata vietata la ricerca sulle staminali embrionali, però era una questione di fondi, non si potevano usare quelli privati. In Italia la ricerca sulle staminali si fa sulle non embrionali, giusto? In Italia in realtà si può lavorare come sulle cellule embrionali, perché la legge non lo impedisce, quindi noi abbiamo una legge permissiva. Non possiamo derivare queste cellule, ma possiamo importarle dall'estero. E quindi contribuiamo in mezzo a mille difficoltà anche noi, insomma, alla ricerca mondiale. Ecco, quale possibilità darà però in più all'America la ricerca sulle staminali embrionali con fondi pubblici rispetto a noi? Insomma, la svolta di Obama per noi cosa cambia? Ma innanzitutto adesso c'è finalmente un comportamento chiaro, coerente e coraggioso, come lei ha ricordato. Le ricerche bandite da Bush non erano affatto ferme, venivano, perché giammai l'America, gli Stati Uniti, no, sarebbero state felici di fare a meno di quelle scoperte, quindi veniva finanziata con i fondi privati quella ricerca, ci ha portato quella ricerca a delle scoperte eccezionali come le cellule riprogrammate di cui disponiamo oggi, una ricerca quindi di cui beneficia tutto il mondo, anche l'Italia e anche i ricercatori italiani. Quindi stiamo attenti alle ipocrisie, no? Di impedire il finanziamento e poi di beneficiare da quelle scoperte. È quello che succede oggi in Italia, attenzione. È ovvio che questa apertura, io la vedo come un'apertura storica, ne sono veramente felice, spero che sia, a dire il vero, un'apertura a tutta la ricerca. Ricordiamo che le parole di Obama sono state parole importantissime. Lui ha detto è compito di un governo appoggiare la ricerca, perché i miracoli in campo medico non avvengono per caso. Quindi un discorso assolutamente senza nessun miracolismo, cioè non c'era. E la ricerca non ha poi confini nazionali e quindi in qualche modo arriverà anche in Italia. Grazie Elena Cattaneo, direttore del Centro Ricerca sulle Cellule Staminali dell'Università Statale di Milano. Parliamo di libri ora. Si intitola Il mio cuore riposava sul suo, è il primo romanzo di Lara Santoro, decisamente autobiografico, un romanzo che parla dell'Africa vista con gli occhi di una donna bianca, Anna, un'inviata di guerra che viene mandata in Kenya per lavoro. Qui la prima persona che incontra è Mercy, una nera corpulenta che le farà da domestica. Ma che tipo di relazione si instaura tra le due? Ce lo racconta la stessa autrice al microfono di Alessandra Tedesco. All'inizio è una relazione molto spinosa, perché Anna non si fida tanto di Mercy, non sa quali sono le sue intenzioni, poi chiaramente le dividono cultura, lingua, passato, anche il presente. Però mano a mano Anna scopre di diventare sempre più dipendente. Ha bisogno di Mercy per quasi tutto. E quindi piano piano i ruoli fra le due donne si invertono. Inizialmente Anna arriva in Africa per starci 3 settimane per una questione di lavoro, poi invece decide di rimanerci per molto più tempo. Perché? All'inizio del romanzo decide di rimanere perché si innamora, nonostante comunque lei abbia già una storia con un suo collega che è un inviato, anche lui di guerra, si innamora di un inglese proprietario di una piantagione di caffè. E invece nel momento in cui aveva scelto di andarsene perché francamente non ne poteva più, incontra Nick e si innamora e decide di restare. In che modo Anna riesce a guardare all'Africa, anche magari attraverso gli occhi di Mercy? Che cos'è che la colpisce di più di questo continente immenso? Sicuramente, certamente la forza degli africani, la forza, la vitalità degli africani e soprattutto delle donne. Poi più in avanti la colpisce molto profondamente la devastazione dell'AIDS, perché a un certo punto si rende conto delle dimensioni del fenomeno, che sono inimmaginabili, sono molto molto difficili da quantificare e da immaginare. Ed è tutto anche per questa edizione di Extra Large. Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. L'appuntamento è per domani dalle 13, buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.